Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vuoti d'organico, pochi operatori, troppa burocrazia e a Trieste il pronto soccorso fa da prima linea anche al disagio sociale. Il CARA di Gradisca è saturo, la Caritas trova un tetto per la notte a 30 migranti e una cooperativa denuncia: non siamo pagati. Cancellata la scritta antisemita apparsa sulla sinagoga di Trieste, decine i messaggi di solidarietà alla comunità ebraica. Meno microcriminalità nella zona della stazione di Udine. Forze dell'ordine concentrate su occupazioni abusive e spaccate. Nel lago di Barci, sotto milioni di metri cubi di ghiaia, il territorio chiede un progetto a lungo termine contro il pericolo piene. Riapre oggi il ponte sul Torre di Chiopris Viscone, chiuso una settimana fa per il maltempo, ma niente mezzi pesanti. La nazionale femminile di calcio a Lignano contro l'Austria in amichevole, test in vista dei mondiali, non ci sarà la Triestina Gama. Non solo Cercivento, l'Università di Udine dedica un convegno alle fucilazioni sommarie avvenute durante la Prima Guerra Mondiale. 7:19 minuti di venerdì 11 novembre. Buongiorno da Daniele Lettige e Rita Micoli. Subito uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è poco nuvoloso sulla regione. Alle 6 c'erano 12 gradi e mezzo a Trieste, a Gorizia 10 gradi, a Udine 6 gradi e 5 decimi, a Pordenone 5, a Tarvisio 6 gradi e mezzo, a Tolmezzo e a Forni di Sopra 6 gradi, sul Piancavallo 2, a Sappada 1 grado, sul Monte Lussari 6 gradi, sul monte Zoncolan 5 gradi e mezzo, sulla costa Grado e Lignano 12 gradi. Ed ecco le previsioni per oggi. Cielo poco nuvoloso su tutta la regione a causa di velature. Bora da debole a moderata sulla costa. Domani cielo variabile, bora moderata in intensificazione verso sera. E in primo piano ancora i problemi della sanità, con il pronto soccorso al collasso per il numero di accessi e per la carenza di medici, e molti accessi si potrebbero evitare se le persone più fragili fossero prese in carico sul territorio. Tra personale che manca e picchi di accessi, anche 250 al giorno, il pronto soccorso di Trieste sta attraversando un periodo di forte difficoltà, ve lo abbiamo raccontato in questi giorni. A gravare sulle spalle di medici e infermieri, che dovrebbero occuparsi delle urgenze, piccole e grandi, di ambito medico, e anche il disagio sociale di una povertà sempre più diffusa e di anziani che talvolta non riescono a ricevere un'assistenza continuativa. La gestione delle fragilità a livello territoriale esiste, ci spiegano dal sindacato CISL Funzione Pubblica, a cui fa capo anche una parte degli assistenti sociali triestini, ma c'è una carenza di operatori, una situazione che impedisce un'adeguata presa in carico dei bisogni dei cittadini e che si riversa inevitabilmente anche sul pronto soccorso. Ma la situazione è aggravata anche dalla crescente burocratizzazione degli aspetti anche più banali dell'assistenza sanitaria, denuncia Francesco Franzin, segretario provinciale della FIMG Trieste. Per fare una trasfusione una volta a domicilio di un paziente che tutto sommato non richiedeva un ricovero ospedaliero, una volta veniva richiesta la quantità di sangue necessario che il medico reputava essere necessario, diciamo direttamente alla banca del sangue, un parente o chi per lui prendeva questo sangue, lo portava ovviamente con la borsa frigo e se lo teneva a casa fin tanto che non arrivava il medico per fare la trasfusione. Adesso, per ottenere questa cosa qua, bisogna fare un sacco di carte da una parte, ma aspettare un sacco di tempo per fare un sacco di esami e per avere le due sacche. Una burocrazia che è aumentata in maniera esponenziale e quindi costringe a un certo punto, per avere una prestazione specialistica o meno, il paziente a rivolgersi al pronto soccorso con la speranza di averla in tempi non subito ma ragionevoli. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'oratorio parrocchiale di Gradisca è stato trasformato in un rifugio provvisorio per i richiedenti asilo che per giorni hanno dormito in strada perché nel CARA non c'è posto. E non solo la struttura è stracolma, ma chi ci lavora dentro in questo periodo non sta neppure ricevendo lo stipendio. Una grande stanza riscaldata con due bagni attigui nell'oratorio parrocchiale di San Valeriano a Gradisca di Sonzo farà da rifugio provvisorio per la notte ai circa 30 migranti che dormivano all'addiaccio per la strada in attesa di un posto in accoglienza. L'idea è di tenerla sempre aperta per l'inverno. Volontari coordinati dalla Caritas si alterneranno nel fornire lo stretto necessario ai richiedenti asilo, oltre che a registrare e inviare i loro nomi alla questura e fare servizio di sorveglianza notturna. Non c'entra nulla col sistema di accoglienza né sarà preaccoglienza, tiene a precisare il prefetto di Gorizia Ricciardi, che ha già visionato gli spazi e chiederà alla Protezione Civile di dare una mano. Lo precisa anche il direttore della Caritas Nucera, richiamando però il monito di Papa Francesco. Non vogliamo dare l'impressione che sia un pre-ingresso al CARA o un secondo CARA, ma un'ospitalità provvisoria. Non si può pensare, visto che andiamo incontro al freddo, lasciarli indifferentemente lì. Abbiamo bisogno però di non maltrattare nessuno, di accoglierli meglio che possiamo e di ritrovare un'umanità e una solidarietà che qualche volta abbiamo perduto. Nessuna novità sul fronte trasferimenti, mentre gli arrivi continuano, anche se meno numerosi, fa sapere il prefetto, mentre il sindacato dei carabinieri Unarma segnala che sono già oltre un'ottantina in lista d'attesa per il fotosegnalamento alla stazione di Gradisca di Sonzo e con l'attuale ritmo giornaliero delle identificazioni prevede l'aumento dei flussi. Nel CARA che scoppia, intanto, i dipendenti di una delle tre cooperative che gestiscono la struttura, con sede a Varese, lamentano forti ritardi nella corresponsione degli stipendi. Non è la prima volta che accade, evidenzia il loro portavoce sindacale Stefano Braico della UIL FPL. Abbiamo più volte segnalato il problema. I dipendenti stanno soffrendo tantissimo questa situazione, tanto che taluni sono costretti a chiedere dei piccoli prestiti a parenti ed amici. È una situazione insostenibile che chiediamo chi di competenza di risolvere quanto prima. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine, nel quartiere della stazione, stanno calando gli episodi di criminalità anche grazie alla presenza dell'esercito in città. Ora a preoccupare sono i cosiddetti furti con spaccata. È soddisfacente il bilancio dei controlli straordinari interforze effettuati dalle forze dell'ordine nelle ultime settimane con l'ausilio dei militari. Numerose le persone e gli esercizi commerciali controllati. Una situazione di ordine pubblico che piano piano nel rione delle Magnole a Udine sta rientrando verso la normalità. Ma sono altri i punti che nell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza sono stati discussi dal prefetto del capoluogo friulano con i vertici di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Fra questi i bivacchi di soggetti nelle strutture abbandonate o in disuso, come gli edifici dismessi nella zona ferroviaria tra via Giulia e via Pradamano. Massimo Marchesiello, prefetto di Udine. Un'altra questione che ci sta venendo fuori, zona adiacente alla stazione, si sono create queste zone di bivacco, di diciamo degrado urbano, su cui l'attenzione proprio recentemente è stata riportata, e anche alcuni edifici che sono comunque di proprietà di enti pubblici, anche su questi attenzione alta e probabilmente interventi a breve anche per sgomberi di situazioni anche pericolose per chi ci sta dentro. Intanto è stato sgomberata Trepo Grande dalla Polizia di Stato con la cooperazione dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, un fabbricato con terreno annesso definitivamente confiscato alla criminalità organizzata. Ma a destare allarme, soprattutto tra i commercianti, sono le continue cosiddette spaccate e danni degli esercizi pubblici. Alcuni titolari lamentano che nel giro di pochi giorni sono stati visitati ben tre volte, spaccando la porta d'ingresso e portando via contanti, tablet e telefonini, il tutto ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti negli esercizi pubblici. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 2.370 le richieste di colloquio online arrivate alla segreteria di ALIG, Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale, per il primo giorno della Fiera del Lavoro del Friuli Venezia Giulia, che si svolgerà oggi in modalità digitale. Il secondo appuntamento, domani, sarà invece in presenza al Teatro Giovanni da Udine e finora ha ricevuto 550 richieste. Tra le imprese partecipanti, pronte ad offrire 890 posti di lavoro, le più gettonate per i colloqui online sono Electrolux Professional con 97 richieste, Accenture con 95 e Deloitte con 90. Novità poco positive per i laminatoi di San Giorgio di Nogaro sul carico di acciaio atteso da Mariupol in Ucraina, rimasto bloccato per mesi. La nave della Kosulic è ripartita ma senza le bramme. Dopo più di 8 mesi, la nave Zarevna ha finalmente lasciato il porto ucraino di Mariupol, dove era bloccata dal 24 febbraio, giorno in cui è iniziata l'invasione russa. Battente bandiera maltese, ma di proprietà del gruppo genovese Fratelli Kosulic, la Zarevna era finita al centro di un caso internazionale. La Repubblica Filorussa di Donetsk puntava a nazionalizzarla insieme al suo carico, 15.000 tonnellate di bramme d'acciaio dal valore stimato di 15 milioni di dollari destinate ai laminatoi di San Giorgio di Nogaro. L'operazione è riuscita a metà. La nave è salpata, mentre il carico è stato scaricato dall'esercito russo pochi giorni prima della partenza. Al momento, si suppone, le bramme sono sotto sequestro da parte russa. Durante l'operazione di scarico, i soldati avrebbero anche danneggiato alcune attrezzature della nave. La perdita del carico si è tradotta fin da febbraio in un danno economico consistente per i quattro laminatoi di San Giorgio di Nogaro, che hanno dovuto cercare nuovi fornitori, spesso più lontani, per sostituire l'acciaio ucraino di ottima qualità. Ai costi, che sono aumentati, si sono aggiunte anche difficoltà logistiche. Sostituire la Zarevna, un'imbarcazione di basso pescaggio e per questo in grado di attraccare al porto di San Giorgio, si è rivelato impossibile. Le altre navi, più grandi, si devono fermare a Monfalcone, allungando di oltre un mese i tempi del trasporto. La Zarevna sta ora navigando in direzione di Varna, in Bulgaria, per riparare alcuni danni provocati dai bombardamenti. Dopo i lavori riprenderà il servizio su altre rotte. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso a Trieste, dove sono tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati alla comunità ebraica colpita da una scritta comparsa l'altra notte, l'anniversario della notte dei cristalli sul muro della sinagoga. Intanto la Digos continua a indagare, ci sarebbe un sospettato. L'altra notte qualcuno ha scritto sulla facciata laterale della sinagoga di Trieste una frase tanto ingiuriosa quanto sgrammaticata e con una grafia infantile ed incerta. Gli ebrei sono i nuovi razzisti e fascisti. Dopo poche ore, già nel primo pomeriggio di ieri, è stata cancellata a colpi di spugna, ma resta l'amarezza per quest'odio antisemita che serpeggia ancora. La Digos sta esaminando i filmati delle molte telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e che hanno già restituito l'immagine di un sospettato. Potrebbe trattarsi di uno squilibrato, come l'autore dello sfregio alla vetrata della sinagoga, poi suicidatosi. La polizia non esclude nessun'altra pista. La data scelta poi non è casuale, perché è l'anniversario della Notte dei Cristalli, quando tra il 9 e il 10 novembre del 38 i nazisti in tutta la Germania misero a ferro e fuoco i negozi e le case degli ebrei. Intanto arrivano a decine i messaggi di solidarietà rivolti alla comunità ebraica triestina, dalle altre confessioni religiose e dal mondo politico. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Preoccupa la situazione del lago di Barcis, dove, per evitare le piene, sarebbe necessario portare via una grande quantità di ghiaia. Un'operazione, però, non priva di controindicazioni. Se viene un'alluvione, non si sa mai cosa può venire. L'acqua sale perché non c'è più spazio per l'acqua. La metà di quello spazio è occupato da ghiaia e detriti. Oggi il lago di Barcis ne contiene almeno 8 milioni di metri cubi. Lo sa bene chi qui ci vive, troppo spesso vede l'acqua pericolosamente salire. L'ultima volta a giugno, poche ore di pioggia per sfiorare il livello della strada. Nei giorni scorsi la regione ha indicato Barcis come comune capofila per individuare una soluzione che metta in sicurezza l'abitato e salvaguardi la vocazione turistica del territorio e la qualità di vita dei residenti. Ci vorranno anni e soldi, 5 milioni solo per il nuovo ponte. Intanto i 600.000 metri cubi di ghiaia estratti dopo vaia sono di fatto già tutti rientrati nel lago. Il sindaco di Barcis, Claudio Traina. La ghiaia ha raggiunto il piano di campagna per quanto riguarda la coda del lago all'altezza della passerella. Se pensiamo che la Briglia, più o meno all'altezza del Varma, ormai è inghiaiata per 15 metri. La preoccupazione nostra è questa. Con eventi di piena importanti ci troveremo a dover distribuire di nuovo i sacchetti come abbiamo fatto in occasione di vaia. Per i sindaci serve un progetto di lungo termine che coinvolga l'intera asta del Cellina, compresi i soggetti concessionari. Nel breve termine è necessario sghiaiare almeno 200.000 metri cubi di ghiaia, quanta ne porta il Cellina ogni anno, con il disagio del passaggio dei camion per abitati piccoli e delicati. complicati. Igor Alzetta, sindaco di Montereale Valcellina. Ricordo che ci sono edifici che permettono il passaggio di camion e stanno a 15 centimetri da una sponda all'altra del camion. Danni ai sottoservizi ci sono, danni alle abitazioni ci sono. Da questo punto di vista bisogna anche pensare a una forma di indennizzo. Barcis, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Riaprirà oggi alle 15 il ponte sul torrente che collega Palmanova a Chiopris-Viscone. La circolazione interrotta una settimana fa durante la forte ondata di precipitazioni sarà però consentita solamente ai mezzi fino a 3,5 tonnellate, quindi sarà interdetta ai mezzi pesanti. Il cosiddetto ponte vecchio era stato chiuso perché presenta diverse criticità. È prevista l'installazione di sensori perché la struttura va costantemente monitorata. Il commissario dell'EDR, l'ente di decentramento che ha sostituito le province, Augusto Viola, auspica il completamento in tempi rapidi del nuovo ponte, parallelo alla vecchia struttura, che dovrebbe essere transitabile entro il 2023. Ma soprattutto, secondo Viola, va riparata la briglia di contenimento crollata 2 anni fa. Nel frattempo, sul greto del torrente, sono stati effettuati i lavori di consolidamento e riempimento dei buchi che si sono formati intorno ai piloni del Ponte Vecchio. Ed è stato presentato a Monfalcone l'aggiornamento dei lavori che Irisacqua sta facendo nell'Isontino. Tra i molteplici punti del programma su cui Irisacqua sta lavorando a Monfalcone spicca la roccia a San Giusto, con un intervento sia in chiave sicurezza sia di pulizia dagli scarichi di reti private da deviare altrove, finanziato al 100% dal commissario straordinario per il dissesto idrogeologico con termine al 2024. Tra gli altri aggiornamenti presentati dalla concessionaria di reti e impianti idrici del Goriziano figura poi il centro visite di Pietrarossa. Spiega l'amministratore unico di Irisacqua, Giambattista Graziani. Siamo alla fase conclusiva delle autorizzazioni in AUSIR, quindi nell'ente competente regionale che dà appunto le autorizzazioni finali, dopodiché noi andremo in gara. Prossimo anno avremo l'acqua, il comune avrà l'acqua al centro visite di Pietrarossa. Prevista tra febbraio e marzo l'apertura dello sportello societario in città, mentre è programmato al 2024 il rifacimento della rete fognaria che entra a Monfalcone da via Garibaldi, Bixio e Carducci. Ci concentreremo nel 2023 per fare le progettazioni e ottenere le autorizzazioni. 2024 faremo questo importante lavoro. Più che impostato il piano da 6 milioni di euro dal PNRR per la condotta della rocca. Dovremmo aver chiuso rendicontato l'opera a marzo 2026, adesso la deadline prossima è settembre del 2023, dovremmo avere già affidato i lavori ad una ditta. A Gorizia poi il progetto di sostituzione della rete in cemento amianto avviato nel 2021 di rilevanza ambientale antispreco dovrebbe terminare i primi 3 lotti a fine anno a fronte dei 260 chilometri da rimodernare nel Goriziano entro 10 anni. Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo ora allo sport. Oggi lo stadio Teghil di Lignano ospiterà l'amichevole di calcio femminile tra Italia e Austria alle 17.30. La partita verrà trasmessa in TV su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Assente la triestina Sara Gama, capitano delle Azzurre. Tiziana Alla di Rai Sport ha sentito il commissario tecnico Milena Bertolini e la calciatrice Elena Linari. Nazionale femminile per la prima volta ospite dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbia d'Oro. La suggestione del mare d'inverno come colonna sonora dell'amichevole con l'Austria, una delle sorprese dell'ultimo europeo. La CT Bertolini vuole che il gruppo ritrovi motivazione ed entusiasmo, punto di partenza imprescindibile nel cammino che porterà l'Italia al mondiale del prossimo luglio. Il coraggio queste ragazze ce l'hanno assolutamente e dobbiamo lavorare meglio su per quello che riguarda l'aspetto offensivo e propositivo, fermo restando quello che è quella solidità difensiva che abbiamo trovato. Torna Linari, il muro della difesa, smaltito l'infortunio che non le aveva più permesso di indossare la maglia della nazionale dalla fine dell'europeo, ma è ancora assente Gama, ferma per problemi fisici come tante altre ragazze del gruppo azzurro. Si gioca tanto, anche in campo femminile, ma è il prezzo della dimensione raggiunta dal movimento. Io mi ricordo gli anni passati in cui casomai non si giocavano amichevoli, si facevano soltanto ritiri con semplici test o con semplici allenamenti ed era molto più lunga. Gli allenamenti che facevamo nei club non erano sicuramente a questo livello e quindi, ripeto, credo che sia un grande privilegio avere tutto quello che abbiamo nella situazione in cui siamo. Dobbiamo essere brave però anche noi ad essere professioniste e professionali e iniziare a capire che veramente si sta andando in alto sotto tutti i punti di vista. Ed ora un appuntamento. L'Università di Udine, a 40 anni dalla scomparsa, ricorda il giurista friulano Giuseppe Bettiol, cervignanese di nascita, padre costituente, penalista di chiara fama, uomo delle istituzioni e di profonda cultura umanistica. L'incontro di studio questo pomeriggio alle 16 nell'aula B del Polo Economico Giuridico di Via Tomadini a Udine. L'appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Ateneo con l'Unione Giuristi Cattolici Italiani, la Società Filologica Friulana, la Fondazione Friuli, gli Avvocati Gius Lavoristi Italiani e con la collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Udine. È dedicato alle fucilazioni sommarie avvenute durante la Prima Guerra Mondiale il convegno Non solo Cercivento, promosso dalla Consulta Storica sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio, nominata dalla Presidenza del Consiglio regionale. L'appuntamento inizierà alle 14.30 a Palazzo di Toppo Wesserman e vedrà l'intervento di diversi storici. La conclusione sarà affidata ad Andrea Zannini dell'Università di Udine. Sentiamolo. Il convegno è organizzato dalla Consulta regionale storica sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio, che è una appunto consulta nominata dalla Regione che nel maggio 2021 ha approvato all'unanimità una legge che istituisce una giornata della memoria sulle decimazioni e fucilazioni per l'esempio, e il convegno è la prima occasione di questa consulta per fare il punto sugli studi relativi alla giustizia sommaria durante la Prima Guerra Mondiale. L'Italia purtroppo ha il triste primato tra i paesi europei di aver utilizzato largamente questo tipo di giustizia sommaria per le condanne di soldati accusati di vari reati, quali tradimento, diserzione e quant'altro. Parla di circa un migliaio di casi, quando in altri eserciti la cifra è stata inferiore. La maggior parte di questi casi naturalmente riguarda la nostra regione. Tra gli effetti di questa paurosa azione di repressione di disciplina attuata dai comandi italiani vi furono appunto questo tipo di azioni disciplinari che potevano portare anche a seguito di comportamenti non necessariamente antimilitari, potevano portare alla condanna a morte. Il caso più famoso dei quattro alpini di Cercivento, che vennero appunto giustiziati il 1 luglio 1916, non perché si rifiutarono di combattere, ma perché si rifiutarono di salire la cima del Monte Cellon di giorno senza copertura di artiglieria, e essendo loro alpini del posto suggerivano un'altra strategia di guerra. Ancora un appuntamento. Cosa succederà a causa dell'impatto del cambiamento climatico nel prossimo futuro nel territorio friulano e alle imprese che vi sono insediate, e cosa si può fare per mitigarne gli effetti? Sono alcune delle domande al centro di un convegno promosso da Confindustria Udine che si terrà oggi dalle 14.30 a Palazzo Toriani e intitolato Il cambiamento climatico in Friuli Venezia Giulia e l'impatto sulle imprese, adattamento, mitigazioni, nuove tecnologie. Relatori dell'incontro, che sarà introdotto da Piero Petrucco, vicepresidente vicario di Confindustria Udine, saranno Maurizio Fermeglia e Andrea Mio dell'Università di Trieste, Andrea Cicogna dell'OSMER, Stefania Delfrate di ARPA e Paolo Licata della startup Code Convert dell'Università di Udine. Siamo ora alla rassegna stampa. Il Piccolo di Trieste ha due titoli che dominano la prima pagina: una fotonotizia sulla scritta antisemita sui muri della sinagoga e poi il tema della sanità. Il pronto soccorso diventa la priorità del nuovo Cattinara. Cambiano le gerarchie nella riqualificazione dell'ospedale, l'allargamento del reparto emergenze supera il burlo. Questa notizia è anche l'apertura delle pagine della cronaca cittadina. Sempre in prima pagina, tra i richiami di cronaca, la Regione stanzia 10 milioni per l'acquisto dell'ex caserma di Via Rossetti. Nelle pagine interne, un articolo dà conto dell'ok del Parlamento europeo all'entrata della Croazia nell'area Schengen dal 2023. Ora la decisione finale spetta al Consiglio europeo del prossimo 8 dicembre. L'apertura del Messaggero Veneto di Udine per il nuovo decreto aiuti su contante, energia e bonus. Nella fotonotizia, la celebrazione al Teatro Nuovo per i 100 anni del liceo scientifico Marinelli, tra i suoi allievi il Nobel Rubbia. In taglio alto l'emergenza migranti, ma non ci saranno trasferimenti, si legge dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia. Di spalla la cronaca con lo scontro di ieri mattina sul ponte di Dignano, sotto accende il fuoco con l'alcol, pensionato di Codroipo ricoverato con ustioni gravissime a Udine, e ancora il genio fa brillare 6 granate trovate vicino a un'azienda di San Giorgio di Nogaro. Ad aprire la cronaca cittadina sono i lavori per la nuova procura, ne abbiamo parlato ieri. In taglio basso imprime il nuovo macchinario per conservare il fegato da trapiantare per oltre 12 ore, è stato usato per la prima volta a Udine. Sul Gazzettino, Sequals Gemona, sindaci divisi sulla nuova autostrada, l'apertura ancora, anche qui la cittadella della giustizia e l'anziano ustionato. Nella fotonotizia, nuovo sopralluogo su Lussari per il Giro d'Italia. In taglio basso il calcio, Udinese Beto dall'inizio per spaventare il Napoli. L'apertura dell'edizione di Gorizia del Piccolo è dedicata, con una fotonotizia, agli allagamenti che ieri hanno colpito Grado e Fossalon. Sotto, il titolo principale è dedicato invece alla viabilità. Il senso alternato sul vallone ancora per mesi, un piano per i lavori di messa in sicurezza, barriere antifrane dopo i roghi della scorsa estate. Gorizia 2025 guarda al commercio, potenzieremo la distribuzione, è invece il titolo delle pagine della cronaca di Gorizia. Aperto ieri il nuovo supermercato Famila, il sindaco Ziberna, recuperata un'area degradata, ci sarà più occupazione. Più traffici e occupazione in porto, nominati i primi 2 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dello scalo, è invece il titolo principale della cronaca di Monfalcone. L'impresa Alto Adriatico in 2 mesi ha aumentato l'organico del 30%, ripresa anche nell'automotive. E anche il Gazzettino di Pordenone apre sui progetti per il collegamento stradale della Pedemontana. Sotto, infermiera presa a calci dal paziente che sconta la pena, è successo nella REMS di Maniago, denuncia il sindacato Nursind. Nella fotonotizia, il Bronx a pezzi, subito un vertice sul degrado urbano nel quartiere pordenonese. Di spalla, oltre all'emergenza migranti, il lavoro, i sindacati trascinano Electrolux al Mise, chiesto un vertice a Roma, sarebbero a rischio 30-40 posti di lavoro nella destra, tagliamento dei 4.000 tagli preventivati a livello mondiale dal gruppo. In taglio basso anche qui il calcio, Dubitska scontro Cesarini, i Bomber si sfidano domani a Piacenza, da ex il giocatore lituano. Sul Messaggero Veneto, a differenza dell'edizione di Udine, la fotonotizia, mostre d'arte a Pordenone, tesori nel cavo del museo, seconda esposizione con le opere conservate in deposito, ed è questo l'argomento che apre la cronaca cittadina. Di spalla aumentano i costi per il nuovo ospedale, rincaro di 7.600.000 euro. Sotto, oltre all'incidente sul ponte di Dignano di ieri con traffico bloccato per oltre 2 ore, l'influenza aviaria, controlli in 14 comuni, zona rossa di sorveglianza dopo l'infezione scoperta a Porcia. Siamo agli appuntamenti di oggi. Al Festival Internazionale di Musica Sacra, il progetto del saggista e critico musicale Sandro Cappelletto, da Saramago alle note di Haydn. Concerto affidato al quartetto d'archi sloveno String Quartet Mint, alle 20.45 nella chiesa concattedrale di San Marco a Pordenone. Il sindaco ebreo Elio Morpurgo, dall'Unità alla Shoah di Valerio Marchi, il titolo della pièce in scena al Castello di Butrio alle 20.30. Tra narrazione, inserti musicali e voci recitanti, la vicenda di Morpurgo, che fu sindaco di Udine, deputato, sottosegretario e senatore, che aderì al fascismo e che fu assassinato dai nazifascisti nel 1944, e dei suoi familiari friulani. Per il progetto Figure oltre il presente continua l'omaggio del Teatro Verdi di Pordenone al compositore di origine istriana e di formazione triestina Luigi Dalla Piccola, progetto che si inserisce anche negli eventi di Gorizia 2025. Fino a domani convegno e concerti ad ingresso gratuito, oggi alle 10.30 piano solo. Il pianista Simone Librale propone un omaggio a Carter, Sciarrino e Petrassi, discepolo di Dalla Piccola. Non è mai notte quando muori, questo è il titolo dell'ultimo romanzo dello scrittore Tullio Avoledo, che lo presenterà alle 18 all'Abbazia di Rosazzo nell'ambito della rassegna I colloqui in Abbazia. A Trieste si proietta Gli ultimi mesi, il lager di Bolzano, docufilm sul campo di concentramento di Bolzano con gli autori e lo storico Costantino Di Sante, alle 17.30 al Circolo della Stampa di Corso Italia. Il secondo appuntamento della rassegna Storie scritte sull'acqua, organizzata dalla Lega Navale di Monfalcone, nell'incontro da Vipacco al canale di Suez. Si parlerà dell'emigrazione femminile dalle valli del Vipacco e dal Carso in Egitto dopo la costruzione del canale, protratta per un secolo, coinvolgendo migliaia di giovani donne. Inizio alle 18. Sarà inaugurata oggi alle 17.30 al Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata di Trieste la mostra Marinai delle vecchie province fra i ghiacci, a 150 anni dalla spedizione polare nella terra di Francesco Giuseppe, l'esplorazione continua. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico da domani al 18 dicembre. E alle 18, nella sede dell'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste, Marianna Cerboni presenta il catalogo della mostra antologica Livio Rosignano, Dipingere il Vento, la prima ordinata dopo la scomparsa del pittore e conclusasi di recente al magazzino 26 del Porto Vecchio. Verrà anche proiettato un video sull'artista considerato uno dei più rappresentativi del secondo Novecento a Trieste in regione e apprezzato anche a livello nazionale. E alla Biblioteca Stelio Crise di Trieste parte dalle 9 Riparare il presente per abitare i futuri anteriori, evento organizzato dall'Istituto Nazionale di Architettura, sezione del Triveneto, ideato e coordinato da Lucia Krasovec-Lukacs con l'Ordine degli Architetti di Trieste. E due appuntamenti oggi anche con la psicologia, il terzo con il Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia dal titolo Parkinson e riabilitazione, il ruolo dell'attività artistica alle 18 al Teatro Comunale di Gradisca di Sonzo, in programma la proiezione del cortometraggio Non è volare a cura dell'associazione Examina di Gorizia, poi la conferenza su Parkinson e riabilitazione, appunto il ruolo dell'attività artistica a cura di Alberto Cucca, neurologo specializzato nei disordini del movimento, studente del corso di dottorato di neuroscienze dell'Università di Trieste e ricercatore clinico nel Dipartimento di Neurologia della New York University. Alla Casa della Psicologia di Udine, invece, la nuova struttura dell'Ordine degli Psicologi della Regione, alle 18.30 Lucia Beltramini, psicoterapeuta e docente universitaria, parlerà della violenza di genere in adolescenza e di come riconoscerla e prevenirla. E oggi a Dolegna del Colio, la festa del ringraziamento, giunta alla 56esima edizione con il premio Falcetto d'Oro e il premio Foglia d'Oro del Comune a enti e personalità che hanno promosso l'agricoltura e la viticoltura e in generale la cultura rurale in regione, in Italia e nel mondo. Alle 11 nella tenuta Yerman, in località Ruttars, preceduta dall'arrivo dei mezzi agricoli che dopo la celebrazione eucaristica verranno benedetti. Per la tradizione popolare questi sono i giorni dell'oca. Tanti sono gli appuntamenti dedicati al pennuto, tra questi la festa dell'oca di Lavariano, che domani festeggia i 25 anni di fondazione e che ha una storia particolare e veramente popolare. Sentiamo. Dante Bernardis è l'inventore e l'anima, assieme ad un agguerrito comitato, della festa dell'oca e del vin novello di Lavariano. L'ha fondata 25 anni fa. Come mai le è venuto in mente l'oca? Dunque, l'oca perché era una tradizione di famiglia dalla parte della nonna, era una festa a ritornare l'11 per San Martino e trovare un'oca pronta. L'ho vista sempre come festa, però era così un po' dietro le quinte, ho detto meglio che la porti prima in trattoria dove avevo la trattoria e quindi era una festa lì, ma poi ho detto bisogna farla più grande, è un bel animale, antico, allora io volevo portarlo in piazza. Una festa che dalla famiglia è diventata del paese. Sì, esatto, le varie piccole osterie mi hanno aiutato, e quindi ognuno faceva un piattino con l'oca e resta così, è nata con un fuoco semplice. 25 anni, com'è evoluta e che cosa preparate per questo weekend? La novità è che intanto quest'anno si fa una mostra fotografica, e vedersi un po' a fianco, come sempre capita, di sfogliare un album e rivedersi fa sempre piacere. E oltre a questo c'è, perché c'erano anche dei personaggi che arrivavano da noi, no? Non solo i friulani o il resto, era un grande amico Renato Pozzetto, e quindi speriamo sempre di far volare quest'oca in una bella festa e di avere la fortuna che San Martino tenga su un po' di sole. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E anche a Muggia, organizzata dalla Proloco fino a domenica la Fiera di San Martino, nella struttura di Piazza Marconi, l'esposizione e la degustazione dei vini di eccellenza di 10 aziende del territorio, con assaggi guidati a cura della sezione di Trieste dell'ONAF. Torna a Gemona formaggio dintorni, fino a domenica organizzati dall'Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia, mercatino, convegni, concorsi e mostre bovine. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 il consueto appuntamento con Vueo Fevelindi, che parlerà dei bilanci delle piccole cooperative di consumo, oggi a rischio a causa del caro bollette. Alle 11.20 un tranquillo weekend da paura. I programmi regionali torneranno poi alle 13.29. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. In regia Carlo Morello e Viola Romanese. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Daniele Lettic e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.